24 mattino. Ma perché date voce a quella persona? A quel padre che non è un padre, perché se fosse stato davvero un padre, quel ragazzo non sarebbe stato a fare le rapine. Perché date voce a questa gente? Perché gli date voce? Sul caso Napoli, come dice uno dei vostri colleghi, scusatemi, io sono lo scemo della comitiva e non capisco. Ma cosa, accidenti, c'entrava il pronto soccorso? Potrei vivere 1000 anni senza capirlo. Bah! Non c'entrava niente, in effetti. E sul fatto di dar voce al padre, noi abbiamo dato voce al padre, è una delle voci della cronaca di ieri, di questa dolorosa cronaca di ieri. Ometterla, a mio giudizio, sarebbe stato sbagliato. Questo non vuol dire che si concordi con quella voce. Quante voci mandiamo con le quali non siamo d'accordo? Però è chiaro che un pezzo di quello che è successo ieri è presumibilmente dovuto anche alla famiglia. Poi, in situazioni difficili come questa, insomma, ovviamente ci riferiamo alla vicenda del ragazzino di 16 anni ucciso da un carabiniere che lui aveva tentato di rapinare, insomma, anche le sfumature sono tante, no? E sono così delicate che toccarle non è facile. 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, insomma, se volete farle sentire come avete fatto adesso, sono benvenute naturalmente. Ci trovate anche su Instagram, l'account è 24 mattino, come sempre vi dico, mandateci, ci trovate un po' di cose, ogni tanto qualche video che mettiamo, con l'invito anche a partecipare, a dirci la vostra, e poi le vostre foto, le foto di quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, il racconto collettivo degli ascoltatori di Radio 24 la mattina. Mandatecela qua su WhatsApp al 349-238-6666, diteci il nome e dove siete, però, se no come facciamo? È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:22 minuti di questo lunedì 2 marzo ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia e siamo anche in diretta su Facebook, come ben sapete. Iniziamo come sempre dalle prime pagine dei quotidiani e dai titoli, che sono in gran parte dedicati al Covid-19, al coronavirus, e però con alcune differenze. Il Corriere della Sera, per esempio, la prende dal lato dell'Unione Europea. L'UE affronta l'emergenza, scrive il Corriere. La Repubblica, dal punto di vista strettamente italiano, con le parole di Brusaferro, il capo dell'Istituto Superiore di Sanità. 7 giorni per fermarlo è il titolo della Repubblica, serve uno sforzo decisivo per interrompere il contagio. Il Messaggero, dal punto di vista delle regole nei rapporti personali, blocchi e distanza tra persone. La Stampa, anche qua sull'Unione Europea, virus, l'Europa apre al deficit italiano. Il Fatto Quotidiano, polemicamente dal lato calcistico, il contagio galoppa ancora, però si litiga per il pallone. Misure antivirus, aiuti pochi e divieti è il titolo del Quotidiano Nazionale. Fate presto è quello del Giornale. Emergenza poltronavirus, la Verità. Lasciateci lavorare è il titolo di Libero, pressante richiesta al governo, dopo i veneti anche i lombardi scendono in piazza per essere liberati da alcune restrizioni. Il Sole 24 Ore, la crisi del virus toglie 500 milioni dal tesoretto del mini spread. La Gazzetta dello Sport, il piano Juve-Inter, nuova ipotesi lunedì 9 marzo a porte aperte. Guardate che su questo siamo veramente al delirio, Va bene. Cioè, non che sia importante, però dà un po' l'idea di come funzionino alcuni meccanismi decisionali presi un po' sull'onda dell'emozione, un po' no, un po' sull'onda della razionalità, un po' no. Iniziamo come sempre però da qualcos'altro, da qualche altro argomento. Poi con Paolo Mire alle 7.30 passeremo a tutto il capitolo coronavirus. Andremo a parlare anche di quello che succede a Lesbo e quello che succede al confine tra Turchia e Grecia. Ci occuperemo anche delle primarie americane. E però andiamo su qualche argomento laterale. Innanzitutto, come sempre in questa parte della rassegna stampa, iniziamo da pagina 16 della stampa con una notizia che ha a che fare con una decisione della Cassazione che farà discutere per le motivazioni. È una sentenza che ha a che fare con una separazione e una foto. Una foto che attesterebbe il tradimento dell'uomo. E però, come lo attesta questo tradimento dell'uomo? Basta poco, scrive la stampa a pagina 16, per far scattare la separazione con l'addebito, tornato di moda nei tribunali dopo un periodo di soffitta, per punire il presunto colpevole dell'affossamento del matrimonio. Sono sufficienti delle foto che mostrano uno dei coniugi in un atteggiamento di intimità non meglio specificato, ma che, secondo la comune esperienza, induce a presumere l'esistenza di una relazione coniugale. Che cosa rappresenti questa foto esattamente non è chiaro. Il via libera a questo tipo di prove senza appello, non corredate da SMS, ricevute sospette, testimoni della scappatella, arriva dalla Cassazione. I supremi giudici hanno confermato la colpa di un marito romano, accusato di tradimento della moglie Isabella per alcune foto che lo mostrano vicino ad una donna. Immagini, quelle in questione, che non danno conferma immediata e palmare di una relazione adulterina, ma la fanno presumere, non si sa da quali indizi, se non il riferimento al dato di comune esperienza. La Cassazione non ha creduto a Roberto, che sosteneva che si trattava solo di un atteggiamento puramente amicale. Magari camminava a braccetto con una compagna del liceo incontrata per caso, toglieva un capello dalla giacca di una collega in pausa pranzo. Gesti di intimità che sembrano far capire ai giudici non finiscono lì, c'è dell'altro. È comune esperienza che questo atteggiamento attesta il tradimento. E a proposito di separazioni, ci dà una notizia importante, riguarda tante coppie separate di questo paese. Ci dà una notizia importante il Sole 24 Ore a pagina 20, perché ancora una volta la Cassazione mette in chiaro un elemento che ha a che fare con i bambini, con i figli. Il tempo del bambino, appunto, racconta il Sole 24 Ore a pagina 20 con Giorgio Vaccaro, non si divide al 50% tra ex. Nell'esaminare un ricorso di un padre che chiedeva la cassazione di una sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, la prima sezione ha ritenuto adeguata la pronuncia del giudice territoriale, in quanto nel merito erano state già pienamente valutate tutte le istanze del ricorrente. In sostanza cosa succede? Il padre chiedeva di dividere equamente il tempo, 50% con lui, 50% con la ex moglie. Ma la Cassazione dice... quello che va valutato è la crescita equilibrata del minore e ha valutato maggiormente rispondente ad una crescita equilibrata del minore la sua convivenza con la madre, pur con un ampio riconoscimento della relazione della frequentazione con il padre. La regolamentazione dei rapporti fra i genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi. Deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito, che deve garantire appunto al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. E quindi niente tempo diviso 50 e 50 per definizione, cioè può anche essere così, però sarà il giudice a doverlo stabilire sulla base dell'interesse del minore. Sembra una banalità, però la Cassazione ha ritenuto opportuno stabilirlo. Il quotidiano La Verità, pagina 11, ci porta, insomma, in queste ore tanto stiamo parlando delle misure che andranno prese per risollevare l'economia dalla possibile recessione che ci sarà con il coronavirus. Il quotidiano La Verità ci riporta sul mitico tema delle infrastrutture ferme. Il tema è quello, a pagina 10 e 11 il quotidiano lo troviamo, un lungo pezzo che ci racconta come di fatto gli ultimi provvedimenti presi, non è la prima volta che ne parliamo naturalmente, negli ultimi provvedimenti presi abbiano sostanzialmente rallentato i cantieri e le infrastrutture. E però, insomma, ci riporta anche al tema di come mai si bloccano le infrastrutture. Innanzitutto ci sono una serie di casi che vengono raccontati, no? L'intervento per la realizzazione della nuova statale da Sassari a Olbia, suddiviso in 10 lotti con lavori in corso, ma in realtà una strada sulla quale sia la regione che i ministeri si schiantano e non riescono ad arrivarne a una. Il raccordo Salerno-Avellino, per il quale manca ancora il commissario, e soprattutto la segnalazione del vicepresidente dell'associazione dei costruttori, il quale dice: i manager congelano i fascicoli perché hanno paura delle procure. In sostanza, per evitare un'accusa di abuso d'ufficio, i dirigenti territoriali non firmano le carte. A chiudere questa prima parte, siamo a pagina 14 della Stampa, e c'è, come ogni lunedì, l'inchiesta, ossia due pagine di approfondimento, che appunto sono pagina 14 e pagina 15 nella fattispecie, e che ci racconta di un caso particolare, ossia quello dell'amianto, con lo Stato che frena sui risarcimenti. Cosa vuol dire che frena? Che prima lo Stato ammette che sì, quella vittima dell'amianto si è ammalata per aver respirato veleni in caserme, scuole, ospedali, impianti sportivi pubblici. Poi però, quando si tratta di riconoscere i risarcimenti, cerca di pagare il meno possibile e si mette di traverso, trascinando la famiglia in cause lunghe anni, difficili da sostenere economicamente e psicologicamente, e lo fa anche se poi, nella netta maggioranza dei casi, la sentenza gli sarà sfavorevole. Sono migliaia in Italia le vittime dell'amianto, impegnati in estenuanti battaglie giudiziarie contro lo Stato, che schiera un pool specializzato all'Avvocatura di Roma, più decine di legali in giro per i vari distretti, tutti al lavoro per ridurre al minimo l'esborso per le casse pubbliche. Cosa prevede la legge per le vittime dell'amianto? Un assegno mensile di circa 1.500 euro che viene pagato ai familiari dopo la morte, una cifra una tantum di circa 200.000 euro che in molti casi se ne va in spese mediche e viaggi per le cure. E però Ezio Bonanni, presidente dell'osservatorio da 25 anni impegnato sul tema, dice: ci troviamo davanti a migliaia di casi in cui vengono riconosciute cifre inferiori al dovuto per gli assegni mensili o negate le altre forme di indennizzo. Le motivazioni? Ci dicono che non si può escludere che la morte sia stata causata anche da altri fattori, oppure che, avendo già liquidato i vitalizi mensili, allora le altre forme di risarcimento devono essere ridimensionate. Una pausa. Le 7:37 minuti e 15 secondi, veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa. Caro Paolo Mieli, direttore, buongiorno, ciao. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, dunque iniziamo, come sempre questa parte la dedichiamo in questi giorni al coronavirus, al Covid-19, e poi passiamo ad altro, parleremo anche di Lesbo, di quello che succede ai confini tra Turchia e Grecia, però dal coronavirus iniziamo, e inizierei, Paolo, oggi dalla parte estera, no? A partire dalla Francia, dove chiude il Louvre, chiudono le piscine di Lourdes, no? E poi l'occhio che si rivolge anche un po' agli Stati Uniti. Sì, e poi queste cose sono enormi, anche perché la chiusura del Louvre, dalla Francia è arrivato un prete che era stato in Italia e che si è ammalato, e questa cosa ha portato alla chiusura a Roma di due chiese importantissime, San Luigi dei Francesi e Sant'Ivo dei Bretoni. San Luigi dei Francesi è notissima anche agli amanti della storia dell'arte, perché contiene tre affreschi di Caravaggio e la copia di un Raffaello fatta da Guido Reni. E ieri si sono trovati questo annuncio, e nella giornata di ieri anche il Papa ha tossito, sì. E, apparso raffreddato, ha annunciato che non parteciperà agli esercizi spirituali, non è malato, insomma non è stato infettato da questo virus, però è venuta fuori la notizia, tornando all'estero, che un grandissimo scrittore, il cileno Luis Sepúlveda, ha contratto il virus, lui e la moglie, partecipando a un convegno di scrittori in Portogallo. E, insomma, si sono ammalati, sì, anche in forma non lieve. Luis Sepúlveda l'autore di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, l'autore del vecchio che leggeva romanzi d'amore, insomma un autore sì, abbastanza noto. E perché la metto in testa? Perché io sono convinto che per le fantasie dei lettori di giornale, quando un virus colpisce una persona nota, beh, quello è il momento di svolta. Non so, ricorderai tu benissimo quello che fu la malattia di Rock Hudson per l'AIDS. In quel sì, momento, fino a quel giorno, sembrava che fosse un male che colpiva solo gente anonima. Quando comincia a colpire persone conosciute, beh, poi soprattutto persone conosciute in tutto il mondo, beh, a quel momento se ne prende percezione, anche se i giornali, la stampa, i media adesso cercano di smorzare l'allarme. Oggi per esempio sul Corriere della Sera c'è una lettera al direttore Luciano Fontana di un lettore che dice: ma non potremmo parlarne meno, smorzare questa enfasi? E il direttore del Corriere Fontana in parte gli dà ragione, però in parte gli spiega anche sì, in maniera secondo me molto efficace i motivi per cui i giornali non si possono sottrarre a dare la giusta enfasi delle notizie. Sì. Però, come tu hai detto all'inizio, poi ne parleremo dopo, il fatto che Repubblica dedichi le prime due o tre pagine a questo esodo sì, dalla Turchia verso la Grecia, questa grande sì, crisi internazionale, significa qualcosa, ma sì, questo ne parliamo dopo. Sì, ne parliamo dopo, significa che l'attenzione piano piano evidentemente si sta spostando. Vi voglio segnalare da pagina 6 della Stampa appunto questo crescere della paura negli Stati Uniti. Alcuni dicono a Seattle c'è un'epidemia e nel frattempo però succedono cose anche nei confronti dell'Italia, con American Airlines per esempio che blocca i voli nella nostra direzione. E poi c'è l'attenzione a tutta la partita economica, e qua iniziare dal Sole 24 Ore a pagina 3 con il rialzo della pressione sui BTP che brucia i vantaggi del mini spread, no Paolo? Che è un sì, pezzo di Maximilian Cellino che ci racconta un po' nel dettaglio come girano le cose. Del Sole 24 Ore mi ha colpito anche il fatto che anche lì la si butta un po' sugli aspetti positivi. Ho visto un articolo di Eugenio Bruno che dice: dalla crisi una spinta alla didattica online, e spiega come è pronta la pagina web del Ministero con le piattaforme, i contenuti multimediali. Poi ho visto anche un altro articolo di Marta Casadei e Valentina Melis su lo smart working oltre l'emergenza, una sfida per le piccole e medie aziende, industrie. La modalità organizzativa a distanza può consentire forti incrementi di produttività, e un altro di denuncia su come la privacy limita i controlli aziendali. Questa pagina a cura di Giulio Coraggio e Giampiero Falasca spiega come sia difficile dentro l'azienda fare delle indagini accurate perché ci sono le leggi sulla privacy che limitano questi controlli. Devo sì, dire che il Sole 24 Ore del lunedì, essendo un settimanale più che sì, un quotidiano, è meno concitato e ci aiuta a fissare alcuni punti, no? dare qualche spunto di riflessione. Sono importanti. All'ombra di tutto questo, parlavamo delle questioni spread, BTP, eccetera. Beh, c'è un filo di tensione politica che leggiamo un po' dalle pagine dei giornali e ha a che fare con i 5 Stelle contro il ministro dell'Economia Gualtieri, il quale tra l'altro è stato eletto ieri nelle elezioni suppletive del Collegio Roma 1, appunto è stato eletto in Parlamento. Sì, i 5 Stelle gli rimproverano di non aver sottoposto in maniera adeguata i provvedimenti economici, e poi dicono che questi provvedimenti economici contro il virus sono scarsi, in questo sono insufficienti, in questo si collegano anche l'opposizione. Ma io, come tu hai giustamente notato, ci vedo qualcosa di più, che parte una polemica dei 5 Stelle contro il PD, che tramite Conte praticamente ha fatto proprio l'intero governo, ormai i 5 Stelle hanno un ruolo del tutto marginale, e si ribellano colgono l'occasione di Gualtieri, al quale rimproverano anche di aver violato le regole per cui un candidato o un partito non dovrebbe parlare quando è il giorno elettorale, dicono che Gualtieri se ne è fregato totalmente, e siccome i 5 Stelle in questo turno, per carità, è un turno parziale delle elezioni romane, sono andati malissimo. Sì, parziale, perdonami, perdonami Paolo, preciso, parziale e con un'affluenza al 17%, quindi diciamo non una cosa pazzesca. Però noi affluenze molto basse, se va avanti così dobbiamo prepararci ad averle sempre, perché se va avanti uno per votare rischia un contagio e una grave malattia, insomma, adesso non voglio fare l'uccello del malaugurio, per carità, e comunque è da notare che i 5 Stelle prendono l'occasione, prendono due piccioni con una fava, sparano su Gualtieri, e questo è un dato nuovo, non è più Matteo Salvini, non è più Matteo Renzi a minare per un giorno, a fare così, a far inciampare il governo, ma sono i 5 Stelle. Teniamone conto, anche se la politica mantiene un profilo più basso in questi giorni, ma teniamo conto che qualcosa si sta spostando anche nell'area di governo. Sì. Allora, adesso andiamo al traffico, non prima di una precisazione, ce lo fanno notare gli ascoltatori. Sì, abbiamo commesso un piccolo errore, ovviamente a San Luigi dei Francesi ci sono delle tele di Caravaggio e non degli affreschi, ma insomma lo sappiamo, insomma, non è che non lo sapessimo. Traffico. Mattino. E veniamo a quello che il Corriere della Sera con Lorenzo Cremonesi a pagina 16 descrive come un nuovo esodo siriano al confine greco. Sono più di 80.000 persone. Repubblica, come già dicevi Paolo, ci dedica pagina 2, pagina 3 e anche pagina 4, cioè le prime tre pagine del quotidiano sono dedicate esattamente a questo, a quello che sta succedendo al confine tra Grecia e Turchia e a Lesbo. Sì, hanno mandato un inviato, si chiama Marco Mensurati, l'esodo dei disperati, Erdogan apre le porte a migliaia di migranti che premono sul confine greco, Atene schiera i militari, un muro alle frontiere contro i nemici turchi, adesso sto leggendo Ettore Livini, e il sultano alza la posta, qui l'articolo di Alberto D'Argenio, altri 3 miliardi vuole per fermare l'ondata. Poi c'è un'intervista molto interessante a Emma Bonino che fa già un bilancio, dice: l'Europa ha fallito sui migranti e ha regolato a Erdogan l'arma del ricatto. A Lesbo si è derugato a umanità e regole del diritto, la Turchia gestisce 3,5 milioni di profughi che può inviare in Europa quando vuole. Nel 2010 paese UE con la percentuale più alta di over 65 era la Germania, oggi è l'Italia, passa a parlare anche di questo, e la Germania è quinta con i migranti. Sì. È un modo di dire che i migranti servono. Sì. Devo dire tra l'altro che si trova poca traccia sui giornali, a dire il vero, di quello che poi ieri è successo effettivamente a Lesbo, dove, come abbiamo raccontato prima, ci sono stati scontri, ci sono stati tentativi da parte di pezzi della popolazione dell'estrema destra di non far sbarcare i migranti, ci sono state violenze nei confronti dei giornalisti e delle persone delle ONG. Poca traccia di questo, molte tracce invece di quello che sta succedendo al confine con la pressione di questi 80.000. Ti vorrei portare, anzi prima, rimaniamo sull'estero, prima di andare alla vicenda di Napoli, innanzitutto perché sempre a pagina 16 del Corriere troviamo un micro riassunto del fatto che oggi per la terza volta in 12 mesi si torna a votare in Israele, in una situazione che ha quasi dell'assurdo. I sondaggi danno una vittoria incerta, parlano solo quando non sanno che dire, i sondaggi dicono 50-50, leggera prevalenza dell'uno o dell'altro, vedremo domani mattina. Io invece ho l'impressione che i fatti di politica che si intrecciano con questi fatti di cronaca radicalizzino l'elettorato e si hanno dei risultati a sorpresa, insomma, non è tempo da risultati a 50-50. Sì. Comunque vedremo domani mattina, mentre invece qualcosa si vede già, che c'è una grande rimonta nelle elezioni, nelle primarie americane, di Biden, Joe Biden, l'ex vice di Obama, che torna in pista. Nel North Carolina ha vinto e vinto bene, bene. Buttigieg si è ritirato, quel candidato che sembrava essere la novità, un candidato gay molto moderno, si è ritirato dalla competizione e adesso è in arrivo il Super Tuesday, il martedì, dove il martedì decisivo, e anche la discesa in pista di Bloomberg. Quindi questa settimana, sì, le prossime volte che io sarò qui con voi, saremo a commentare una svolta nelle elezioni americane. Sì. Senti, vorrei portarti a questo punto su Napoli. Beh, le cronache sono tante, le troviamo un po' dappertutto sui quotidiani, pesco dal Messaggero a pagina 13, al di là dei singoli fatti, la vicenda, lo ricordiamo, l'avete sentita anche in GR24, di questo ragazzo di 16 anni che ha provato a rapinare un carabiniere che era con la sua fidanzata, era fuori servizio. Il carabiniere ha sparato e l'ha ucciso, ha provato a rapinarlo puntandogli una pistola, o meglio una replica perfetta di una pistola, e poi quello che è successo subito dopo. Noi siamo a pagina 13 del Messaggero, quelle urla, sembrava una guerra, tiravano i macchinari per aria, cosa è successo? Che gli amici di questo sedicenne sono entrati nel pronto soccorso e l'hanno letteralmente devastato. Beh, qui ci sono da dire due cose. Uno, che difesa del carabiniere, che quando ti puntano la tempia, ammesso che questo sia accaduto, poi accerteremo meglio gli avvenimenti, una pistola, tu non sai se è un'arma giocattolo o no, tu vedi solo che hai una pistola. Tra l'altro il carabiniere era in borghese, quindi il ladro poteva pensare che fosse un normale cittadino, ha minacciato lui e la fidanzata, insomma. Io su questo sospendo il giudizio, non lo sospendo invece sulla aggressione, sì, al pronto soccorso. Al pronto soccorso, perché non capisco di cosa fosse colpevole il pronto soccorso. Avevano provato veramente fino all'ultimo a salvare il rapinatore, e sfogare l'ira contro il pronto soccorso mi sembra un atto che va capito. Mi aspetto domani di leggere sui giornali delle riflessioni più accurate su questo episodio molto selvaggio di sfasciare un pronto soccorso. Tra l'altro, lo aggiungo tra parentesi, in un momento in cui i pronto soccorso sono particolarmente necessari, sotto pressione, particolarmente sotto pressione, chissà cosa significa, chissà che messaggio volevano mandare. Certo, un messaggio di rabbia, però c'è qualcosa che non mi convince. Scene di guerra, ora basta la violenza, ci sono interviste allo scrittore Diego De Silva sulla Stampa, insomma molti si interrogano su questo episodio di Napoli, che effettivamente, Napoli è una città che ci ha, sì, abituato a scontri di questo tipo, ma effettivamente esce un po' dal normale. Sì. Fate sentire anche la vostra voce su questo al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp. Ne parliamo tra un attimo con Maria Latella alle 8:20, e la vostra opinione è benvenuta, caro Paolo. Però non posso lasciarti prima di andare al tema Sardegna. Però prima di parlare del suo, c'è un sondaggio oggi sulle sardine, però prima la voce da amici, dai. Non è facile riconoscere il bello in se stessi. Se poi sei un ragazzino autistico che pensa alla luna e anche omosessuale, è un bel casino. E allora bisogna avere coraggio. Io ho avuto paura di essere me stesso. Io ho pensato una cazzata, scusa la parola Maria, che fosse meglio morire piuttosto che vivere come pensavo mi volessero gli altri. E invece no, è una figata essere se stessi. Oh. E questo è ovviamente Mattia Santori, un delirio, da amici. Sì, un delirio, non quello di Santori, un delirio quello non è Santori, è Donoli, è quell'altro ragazzo, scusa, quello che era stato attaccato, no, da Salvini, tra mille polemiche. Però ti voglio portare invece sul sondaggio, abbiamo 30 secondi. Ilvo Diamanti ci racconta Diamanti. Le sardine al bivio decisivo, pagina 28 della Repubblica. Sì, Repubblica ha un atteggiamento molto ottimistico, molto pro sardine. L'altro giorno ha recensito questa performance ad amici dicendo che era fantastica, e nel sondaggio di Ilvo Diamanti la somma che se ne trae, adesso non sto, abbiamo poco tempo, non posso leggere le cifre, dice: Diamanti non devono rinchiudersi negli schermi TV né assumere un volto solo, per esistere devono mobilitarsi e immobilitare. Insomma, è una cosa molto militante, però siccome noi siamo obiettivi, leggiamo anche una cosa un po' derisoria nei confronti delle sardine. Mario Giordano sulla Verità: caro Sardino, hai fatto da mocio al PD, o sapevi o sei fesso, o ignoravi e fai pena. Insomma, il tono è questo, ed è un tono derisorio, sono, li definisce l'usa e getta della sinistra. Insomma, si dividono, e curiosamente alcuni giornali di sinistra già non ne possono più per il Sardino, però allora, comunque, hanno l'appoggio di Repubblica. Solo un numero, secondo Ilvo Diamanti, chi voterà, tra probabilmente sì e sicuramente le sardine, chi voterebbe le sardine alle elezioni è il 25%. Grazie Paolo Mieli, ci sentiamo mercoledì. Ci sentiamo mercoledì, ciao.